fru, fru, fru, you, you, you, we, we, we, cucù, ruru, ruru, cucù, cucù, cucù, cucù, fara, fara, rara, fara, tara, tara, rara, tara, para, para, para, rapa, lara, lara, lara, lala, friu, friu, bilo, bilo, bilo, bilo, bilo, lolo, boli, blum, blum, blum, blum, filo, foli, foli, filo, filo, lolo, foli, flum, flum, flum, flum, bilo, lu, filo, lu, u, a, e, ho, whisk, whisk, siu, siu, siu, siu, siu, cocu, cocu, cocu, cocu, cocu, cocu, cocu, abia li, ala ri, ri, ri, la bala, fa la la, fa la la, e poi la la, la la la la la la.